Il gastronauta di Davide Paolini. Gastronauti vicini e lontani, buona giornata. Ebbene, oggi faremo un tour nell'acqua perché visiteremo una serie di ristoranti che offrono una peculiarità, che sono a un metro dall'acqua, quindi che si può mangiare sicuramente, come si dice, coi piedi nell'acqua, o quasi. È evidente che questa è una metafora, però in alcuni forse si potrà anche mangiare coi piedi nell'acqua, ma sicuramente avrete un bellissimo paesaggio, avrete molto fresco, anche se in questo tempo, con tutta l'acqua che arriva, certo che di fresco non è che ce ne sia bisogno, ma speriamo che sia nei prossimi giorni. E allora appunto partiremo con questo tour, ma prima di tutto, cari gastronauti, io vi do un numero a cui chiamare se volete segnalare altri locali in cui si può mangiare con i piedi nell'acqua e magari anche cosa si mangia, perché sicuramente abbiamo scelto dei ristoranti dove, oltre a mangiare coi piedi nell'acqua, si mangia anche solitamente bene. Quindi 800 24 00 24 SMS 349 238 6666. Bene, cominciamo questo viaggio dai laghi. Sì, perché vengono quasi sempre trascurati i laghi quando si parla di acqua, si parla di vacanze, insomma, non vengono portati alla ribalta come il mare o come la montagna, ma oggi andremo in due locali molto molto interessanti, dove appunto, dico, non si può mangiare coi piedi nell'acqua, ma insomma si vede l'acqua, si può anche toccare l'acqua una volta scesi. E allora cominciamo da Gardone Riviera, cominciamo da il ristorante Lido 84. Buongiorno Riccardo Camanini. Buongiorno Davide, come stai? Bene, bene. Allora Riccardo, perché hai scelto appunto questa posizione proprio sul lago? Perché? Qual è, diciamo, è per creare l'atmosfera? Perché sicuramente... Prego. Sicuramente la vicinanza al lago aiuta già il cliente a sentirsi in un posto esclusivo, unico. Il fatto di poter avere la percezione del lago e dell'acqua a un metro di distanza è una cosa che non capita tutti i giorni. Noi abbiamo la fortuna di avere una veranda a lago di 16 metri e una terrazza all'aperto in un giardino, immerso in un giardino di 600 metri quadri. Questo sicuramente aiuta il cliente a passare un momento indimenticabile, lontano dai rumori della strada, immerso nella cornice della Ecco Lagliarda. Riccardo, ma condiziona il lago poi sulla cucina con il pesce di lago e tutto, diciamo, quello che c'è attorno, un po', come posso dire, all'atmosfera del lago? Ma più che condiziona, direi che conduce, se ci si lascia guidare dal prodotto. Questa mattina mi hanno chiamato dei pescatori, perché sanno benissimo che non mi leggo assolutamente a una carta scritta. Mi hanno chiamato e mi hanno detto: abbiamo trovato una trota di lago da 5 kg. Sono un pezzo raro in questo periodo. Raro perché generalmente non salgono in superficie, l'acqua è troppo calda. La trota è fantastica, la trota di lago, perché ha un sapore veramente delicatissimo, molto più delicato del salmone. È arrivata intorno alle 10 questa mattina, l'abbiamo lavorata, l'abbiamo iniziata a marinare, faremo una lievissima marinatura. E la spontaneità ci porta a guardare un po' il prodotto di mercato che abbiamo trovato con la verdura, quindi abbiamo pensato una cosa semplice, ecco. Bene, bene, rimani con noi, perché ora andiamo a Verbania, andiamo in un altro lago, un piccolo lago, andiamo al piccolo lago di Verbania, da Marco Sacco. Buongiorno Sacco. Ciao, buongiorno a tutti. Ecco, qua. Cosa ti ha portato stamattina? Cosa ti hanno portato stamattina i pescatori? Il lucio perca da 12 kg. Ah beh, quindi andiamo sulle grandi dimensioni stamattina. Ma succede solitamente così oppure sì. È una... Sì. No, il perca in questo periodo, siccome l'acqua del lago scalda e quindi va verso le foci dei torrenti per raffrescarsi un po', e quindi diventa una pesca più facile, diciamo. Per cui con l'acqua calda del lago, il torrente fresco che scende, il pescatore va vicino a questi torrenti e riesce a trovare queste dimensioni dei luciperchi. E tu come lo cucini oggi? Ma allora, il perca è una carne completamente bianca, carnosa, molto compatta, quindi ha bisogno di una cottura estremamente delicata, direi quasi una bassa cottura che può essere fatta in pentola ma anche sotto vuoto, in modo tale da trasformare questa consistenza in una morbidezza. E poi ovviamente, come si dice sempre, il lago non ha iodio, per cui poi va aiutato con tante piccole cosette che potrebbero essere agrumi, potrebbero essere anche fondi di carne in abbinamento, ma comunque il valorizzare il prodotto è sempre certo, fondamentale. Ecco, abbiamo il primo radioascoltatore, Giorgio da Milano. Buongiorno Giorgio. Pronto Giorgio? Solo un attimo, sto pagando l'autostrada e arrivo. Bene, allora la chiamo fra po'. Allora sentiamo Riccardo Camanini e poi anche Sacco su questa domanda. Ma esistono ancora i pescatori? Ma da noi sì, esistono ancora, c'è una cooperativa chiaramente che aiuta un mestiere che ormai è diventato abbastanza difficile per essere sostenibile. Però la fortuna vuole che le famiglie più importanti del Lago di Garda, quelle che per tradizione si sono rimandate praticamente ad un approccio lavorativo molto più terreno, hanno saputo valorizzare da un punto di vista anche turistico questa cosa e insomma, il turista ama vedere ancora il pescatore che ci espone i suoi pesci la mattina, ecco. Marco, ci sono anche nel tuo lago? Guarda, sul lago di Mergozzo la pesca professionale è vietata, quindi solo pesca sportiva. E ovviamente senza reti e senza questi pescati in grande quantità il pesce diventa grande. E per cui il pescatore sul lago di Mergozzo fa i contratti con il comune a giornata, a settimana o anche al mese e viene a pescare con la canna dalla barca o da terra. E quindi si possono pescare pesci grossi. Voglio andare al mare, quest'estate voglio proprio andare al mare. Ebbene, noi al mare ora ci andremo, parleremo con due posti di mare veramente intriganti, ma prima sentiamo Giorgio da Milano che doveva pagare non so cosa questo radioascoltatore. Buongiorno Giorgio. Salve, ero in autostrada e c'era una bella coda. Bene, ecco, immaginavo. Era nel momento in cui dovevo pagare. Bene, diamo informazioni agli altri radioascoltatori. Allora, dov'era che c'è questa coda? Dove c'è questa coda? Alla coda e a Melegnano. Bene. C'è un po' di coda. Bene, Giorgio, cosa voleva dirci? Allora, mi trovavo a Siracusa, in Sicilia. Sono stato invitato da alcuni amici a un giro in barca. E poi siamo arrivati al Lido di Noto. E in questo lido ci siamo fermati, sono venuti a prendere, eravamo in barca e non c'era un molo dove attraccare, sono venuti a prenderci con dei pattini, con dei pedalò, sì. E siamo scesi a questo ristorante che si chiama Lido Azzurro, che è proprio sulla spiaggia. Bene. Con questa tettoia sulla spiaggia, molto carino, molto fresco. Giorgio, ma lei ha mangiato bene? Siamo veramente trovati bene. Ha mangiato bene, questo è importante. Allora Lido Azzurro, segnala Giorgio da Milano. Ora io vi porto nell'Adriatico, vi porto in un posto dove non vado da qualche anno, ma so che ogni anno ci sono dei grandi cambiamenti e questo veramente, anche questo è proprio sulla spiaggia, però magari vi faccio raccontare dal patron chef che lo gestisce cosa si mangia quest'anno. Buongiorno Moreno Cedroni, al clandestino di Porto Novo. Buongiorno Davide. E allora, quest'anno qual è il tema? Quest'anno cucina leopardi, sai, il tema è il sushi letterario. Ah, però! Quindi 5 ricette ispirate dal nostro poeta. Addirittura. Poi adesso a breve uscirà anche il suo film, una ispirata da Murakami e una da Hemingway. Ma queste ricette di leopardi sono veritiere, cioè sono proprio buttate giù di mano dal poeta? Guarda, ci sono 49 cibi a lui prediletti, che poi sono cibi e ricette, scritti da lui. C'è proprio questo foglio. Ma che poi è stato pubblicato anche nel suo libro, quindi ho attinto da lì, ma la cosa curiosa è stata che ho scoperto che lui a 11 anni, considera che a 18 ha scritto L'Infinito, a 11 anni ha scritto una poesia che si intitola Odio alla minestra. Quindi praticamente ho realizzato un piatto con dell'orzo perlato e una salsa di vongole che quando arriva non sembra una minestra, anzi è una forma geometrica quadrata. Poi il cameriere a tavola versa un brodo di prezzemolo, cocco e lime, invita le persone a pastrugnarla un po' e diventa la minestra, quindi gli ho fatto uno scherzetto al leopardi. Bene, ma sai che, visto che siamo quasi vicino alla Romagna, Giovanni Pascoli ha scritto un poemetto che è risotto romagnolesco straordinario, dove veramente, se uno lo legge, è la ricetta, e devo dire che è una cosa straordinaria di questo poeta romagnolo. Ma ora andiamo, ricordo il numero che potete segnalare, appunto, ristoranti 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Abbiamo un altro radioascoltatore, sentiamo Oscar da Ferrara. Buongiorno Oscar. Salve, buongiorno signor Davide, un piacere parlare con lei. Volevo semplicemente segnalare in Abruzzo, a Rocca San Giovanni, il ristorante Punta Valle Vo, è gestito da due fratelli, i fratelli Caldora, e davvero si può considerare che si può pranzare dell'ottimo pesce con i piedi sull'acqua, poiché c'è anche un piccolo ormeggio che si può arrivare anche con le piccole barche. È un posto romantico, bello e autentico. Grazie, io devo dire, ringrazio anche, ho già 40 sms che mi segnalano mezza Italia, non posso ovviamente ricordare tutti. Ma ora andiamo in Toscana, andiamo alla Pineta di Marino di Bibbone. Anche qui si può mangiare veramente sulla spiaggia. Buongiorno Luciano Zazzeri. Ciao Davide, come stai? Bene, senti Luciano, cosa c'hai di nuovo quest'anno? C'hai qualche piatto nuovo? Oppure la spiaggia è cambiata, non c'è più, perché con quello che succede, piogge continue, un inverno così pieno di burrasche, cosa è successo? No, sai, qualche danno è successo, qualche cosa, sai, il tempo è sempre perturbato, perciò ecco, ci aspetta anche l'agosto molto pericoloso. Tu che sei un pescatore, con questo tempo così variabile, con acqua, il pesce si trova ancora molto bene oppure ci sono difficoltà? Insomma, sai, il pesce bianco, il pesce nostro di costa, fra i pesci serra, i barracuda e i cambiamenti repentini, il pesce sta molto fermo e perciò è più difficile pescarlo. Ecco, tu che sei un grande esperto, il barracuda è buono da mangiare? Sì, si mangia, io però li odio, sono due pesci che non li posso vedere. Purtroppo il barracuda e il pesce serra rincorrono tutti i giorni i nostri pesci e questi pesci si allontanano. Le morbole, che sono pesci vanno in branco, che era la mia pesca speciale, la mormora con le reti di giorno a battere, come si fa noi, no? Si calano le reti, poi si batte sulla barca, si fanno andare via e rimangono nella rete. Questo non si fa più, è una cosa passata nel dimenticatoio. Perché i pesci serra tutti i giorni sono allerta, sono voraci, perciò li inseguono tutto il giorno e loro si allontanano e diventano prede anche più difficili da catturare. Bene, sentiamo Elena da Rimini. Buongiorno Elena. Buongiorno Paolini. Prego. Allora, io volevo segnalare una ristorantina molto grazioso, con qualità secondo me del pesce molto buona. Abitando a Rimini penso che abbiamo la possibilità, insomma, di veramente avere pesce sempre molto fresco. Si tratta del ristorante Il Falco, sì, alla Baia Vallugola, quindi siamo nella zona di Gabice Mare, Gabice Monte, una zona splendida da cui si può vedere veramente tutta la riviera, la famosa riviera romagnola. E io sento la nostalgia, sì, lo prego, so che... prego. Una nota di colore, che secondo me tante volte i posti sono speciali, il mangiare dovremmo dare per scontato, insomma, che in certi locali la qualità deve essere sempre al primo posto, lì anche il servizio, la cortesia. Ciao ragazzo, un cameriere fantastico che spende sempre quei 10-5 minuti per darti veramente l'indicazione di quello che c'è di fresco e consigliarti veramente quello che è la Senta cosa Elena, ma giornata. non è che questo cameriere è il suo fidanzato, no? No, assolutamente no. Bene, grazie. No. Il mio fidanzato è in macchina. Bene, grazie Elena. Bene, ora vado in Sicilia, andiamo a Lettoianni. Andiamo da un ristorante che è proprio, c'è la strada che taglia e poi di là si può mangiare sulla spiaggia, da Giovanni Ardizzone. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Davide Paolini, quant'è che non ci sentiamo, guarda. Giovanni, sì. È ricco il pesce quest'anno, c'è molta, diciamo, pesca buona? Ma guardi, Davide, quest'anno c'è il doppio dell'anno scorso. Prima perché tanti locali non lo possono permettere di pagarlo. Ah. E poi ci sono alcuni locali, c'è veramente quello che, di pesce che c'è quest'anno non l'avevo visto in 40 anni che sono qua, guarda. E cosa Tonni, spado, gamberoni, scampi vivi, neonato, sparaganaci, calamaretti, calamari, ma tutto fresco, veramente fresco. Ma però il prezzo è aumentato un pochettino. E quindi anche il conto al ristorante aumenta? Ma io sto mantenendo, però giustamente la gente è buona, ce n'è tanta che spende, che non guarda, che beve bene, che beve abbastanza. Io, sai, c'è una bella cantina anche dei vini francesi, però ho visto, sai, un 20% in più dell'anno scorso, che cerca pure di risparmiare. Magari si piglia una bella frittura con 15 euro e mangia bene. Grazie a Giovanni Ardizzone, Danino Alettoiani. Voglio tornare a Moreno Cedrone, perché Moreno Cedrone è presente anche a Senigallia con la sua Madonnina del Pescatore. Allora, che c'è di nuovo alla Madonnina quest'anno? Che è praticamente sulla spiaggia anche la Madonnina, si passa la strada e c'è la spiaggia col mare. Sì, sì, è proprio poi la spiaggia dove sono nato, quindi allora era più lunga, adesso si è rimpicciolita, però c'è sempre un bel panorama, ecco, non è il mare di Portonovo, ma comunque è il mare, sai, dove sei nato, dove hai imparato a nuotare. Quindi guarda, la Madonnina, ti segnalo, ho messo un menù quasi tradizione, cioè che poi sai, la tradizione locale, sai, in 30 anni, quest'anno faccio 30 anni di apertura, ci sono dei piatti che poi nati con me sono diventati un po' la tradizione, ecco. È vero. E quindi ho fatto che poi, ecco, sono parole tue da tanto, no, queste. Sì. E quindi, ecco, ho fatto questo menù a 5 portate con una rivisitazione del brodetto, con una lasagna di pesce, ecco, comunque 5 portate, un dolce. Beh. A 80 euro, quindi guarda, questa è la rivelazione di quest'anno. Bene, grazie Moreno Cedroni. Vado da Luciano Torno, da Luciano Zazzeri. Luciano, ma quest'anno qual è il pesce, diciamo, più prelibato che ti offre il mare? C'è un pesce rispetto ad altri che quest'anno ha una carne veramente fantastica? Ma senti, l'orata quando si prende veramente ora è eccezionale, grandi sapori, il dentice, che io non è che amassi un granché, però ora se ne sta prendendo abbastanza, e anche il dentice se è cotto bene, perché sai, ha una carne un po' più tigliosa, un po' più soda, perciò bisogna stare attenti a come si cuoce. E poi il grande pesce secondo me quest'anno è il San Pietro che tuttora ha le uova, perciò è in grande forma, è grande. Noi facciamo questo bollito coperto di maionese e bottega di mugine, veramente col San Pietro ci sta di incanto. Bene, grazie a Giovanni Ardizzone, Moreno Cedroni, Luciano Zazzi. Sentiamo Marina da Napoli, buongiorno Marina. Buongiorno Paolini, grazie, saluti a tutti. Volevo segnalare un posto non tanto lontano da qui, è a Sant'Angelo d'Ischia, sarebbe il ristorante Olmitello ai Maronti, che è veramente delizioso. Ci sono i barcaioli che da Sant'Angelo accompagnano lì sulla riva, e quello che ha di particolare è che anche le cose più semplici le fa buone, anche un semplice spaghetto con le telline è speciale. Magari le telline, sì, la bravura dello chef si vede nelle cose semplici, e poi il sapore delle cose mangiate a 2 metri dal bagnasciuga è tutto un'altra cosa. Bene, come dico sempre anch'io. Grazie Marina da Napoli. Volevo ricordare ai nostri radioascoltatori che chi si sta dirigendo o è in Croazia, abbiamo una segnalazione anche di un ristorante in Croazia sulla spiaggia, che si chiama Casablanca da Tony, ci segnala un signore di Pordenone. Bene, quindi abbiamo tante altre segnalazioni, Foresta di Bruno a Marina di Pisa, e poi ancora a Portonovo, bene, l'abbiamo già sentito, Grotta Palazzese a Polignano a Mare, poi continueremo segnalandone tanti altri. Con te resto a guardare il mare, l'immenso mare. Ecco, da una terrazza si può sicuramente ammirare il mare e, come dicevo, godere del cibo. Ma sentiamo un radioascoltatore, Lello da Sassari. Buongiorno Lello. Buongiorno dottor Paolini, io sono un suo fan, sono uno chef executive in pensione. Ah. Voglio dire che da noi in Sardegna ce ne sono migliaia di però ce n'è uno vicino alla mia città, nel Lido di Palattamona, nella riviera, che è un localino, il Pescatore si chiama, ed è a 20 metri dalla riva e c'ha questa particolarità che il menù cambia ogni paio d'ore a secondo del pescato. C'hanno i proprietari le barche loro e anche da altri, quindi se lei va a mangiare a mezzogiorno può trovare un tipo di pesce, se vale due ne può trovare altri, perché loro lavorano solo esclusivamente sul pescato giornaliero, quindi roba freschissima, una cosa straordinaria. Senta Lello, io un menù così non l'avevo mai sentito, mi deve ripetere il nome del ristorante? Si chiama Il Pescatore ed è sul lungomare di Plattamona, è una, praticamente una spiaggia lunga 20 chilometri, è una delle più grandi che abbiamo in Italia. Bene, è proprio a 10 metri dalla Lello, io la ringrazio perché è una segnalazione straordinaria, ma siccome abbiamo parlato appunto sempre di mare, essere sul mare, e ora abbiamo sentito questa incredibile menù, abbiamo con noi un personaggio che appunto che di ristorazione se ne intende come, ed è Armando Zanini, che è direttore generale di Capri Palace, ma anche del Riccio e dell'Olivo, che sono due ristoranti, soprattutto il Riccio è sopra la Grotta Azzurra, quindi credo che più mangiare sul mare così si mangia con gli occhi sul mare, vero Zanini? Buongiorno Davide, sì assolutamente è vero, grazie per averci interpellati. Ecco, volevo chiederti, ma hai sentito questa possibilità di cambiare il menù ogni 2-3 ore? Io credo che sia veramente incredibile, fantastica. Bellissima, veramente è deve essere un'esperienza straordinaria ed è un'esperienza forse realizzabile soltanto nel nostro paese, dove il livello di attenzione nei confronti della materia prima e del pescato fresco è elevatissimo, soprattutto in alcune regioni come la Sardegna, come la Sicilia, come la Liguria, la Puglia e naturalmente la Campania. Ecco, rimani con noi, comunque voglio chiedere a Giampaolo Raschi, che è del ristorante Guido a Rimini, che è sul mare proprio, che c'ha anche diciamo dei tavoli proprio sulla spiaggia, e voglio chiedere, voi fate diciamo tutti i giorni un piatto che si chiama se non erro crudo della spiaggia adriatica, ecco, ma potete cambiarlo anche voi così velocemente, Giampaolo? Buongiorno Davide. Certo, il piatto che si chiama crudo di riva cambia giornalmente, perché comunque il pescato varia da giorno a giorno, quindi sono questi quattro pesci che abbiamo sfilettati sotto una julienne croccante di verdure fresche, condite semplicemente con olio e limone. Un giorno possiamo trovare la gallinella, la massola, la triglia, il moletto, lo sgombero, l'oratina, la spighettina. È un piatto che varia quotidianamente. Ecco, ricordo 800 24 00 24, torno a Zanini. Zanini, volevo capire com'è quest'anno diciamo il pescato appunto in campagna, nella vostra zona appunto di Capri. Beh, devo dire che negli ultimi 4 anni c'è stato uno sforzo enorme da parte delle autorità nel controllo soprattutto della pesca diciamo cosiddetta abusiva, e questo sta dando dei grandi risultati, perché per la mia esperienza ormai decennale qui a Capri e quindi vicino a questo mare, per la prima volta dopo veramente molti anni la qualità e la ricchezza del pescato soprattutto in questa primavera è stata elevatissima. E quali sono le specie più diciamo in questo momento che si possono mangiare con maggior sicurezza sulla freschezza? Beh, sempre il pesce azzurro naturalmente, in particolare quello che noi chiamiamo pesce bandiera, un pesce azzurro che tu conoscerai senz'altro, di grandissima qualità, naturalmente deve essere mangiato freschissimo, e in questo periodo anche i piccoli tonnarelli sono di grandissima qualità, e i totani che sono un po' una specialità insieme alle pezzogne di tutta quest'area tra Capri e la costiera amalfitana. C'è tra l'altro una pezzogna di una punta, non mi ricordo come si chiama, c'è un posto particolare per la pezzogna attorno vicino a Capri dove si pesca appunto, sì, questi. Ecco, Punto Campanella, esattamente, proprio questa. Bene, cari radioascoltatori, chiedete la pezzogna di Punta Campanella, sicuramente non ha la targa, ma dipende dalla serietà di chi vi la serve. Barbara da Brescia, una radioascoltatrice, buongiorno Barbara. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Prego. Chiamo per consigliare tutti i locali, innanzitutto un piacere parlare con lei. Chiamo per consigliare tutti i locali che si affacciano su Montisola, che è l'isola all'interno del lago di Iseo, il Sebino, ed è l'isola lacustre più grande d'Europa. Panorama fantastico e pesce di lago ottimo. Ma ci dà un ristorante, uno? Possiamo dire Trattoria al Sole? Bene. A Sensole. Bene. Bene, 800 24 00 24. Devo dire che voglio continuare un po' a leggere anche degli sms. Ora mi è arrivato il ristorante La Loquita a Santa Maria di Leuca, posizione pazzesca, il mare a 2 metri, e devo dire anche due mari che si congiungono, quindi un'esperienza davvero straordinaria. Ma torniamo a Giampaolo Raschi, torniamo all'Adriatico. E Giampaolo, ma i pescatori, cioè diciamo le barche, sono ancora numerose? Si sono ridotte in questi anni? La pesca ha qualche problema? Le barche si sono ridotte, non notevolmente, ma qualcosa è calato. E se più attenzione in quello che è il pescato, si trova un pescato più di qualità, sicuramente dovuto a una minore pesca massiva, no? Massitta, come si era passata negli anni precedenti. E ho notato molto più attenzione. Poi quest'anno in particolar modo il mare Adriatico, soprattutto nella nostra zona, sta servendo un prodotto fantastico di altissimo livello e di altissima qualità, soprattutto col pesce azzurro e soprattutto anche con i pesci d'assaggio, i nostri classici, dalla canocchia alla soglia, le vongole, i cannelli. E c'è veramente da divertirsi, soprattutto quando si va a fare. E i prezzi sono cresciuti, i prezzi del pesce? E i prezzi purtroppo sono cresciuti, tutti gli anni c'è un piccolo incremento e la qualità, come per tutte le cose, va pagata. Bene. E rispetto agli altri anni, sì, un incremento c'è stato. Sentiamo Francesco da Foggia. Buongiorno Francesco. Buongiorno dottor Paolini, ho sentito prima il titolare di Guido. C'è un altro ristorantino che mi permetterei di segnalare, proprio a Miramare, vicino a Guido, Ricci di Mare. Sì. Ugualmente praticamente sulla spiaggia, ottimo rapporto qualità-prezzo, roba fresca, ed estate ovviamente si può fare il bagno, è uno stabilimento, sono 100 metri da Guido, ripeto, senza nulla togliere a Guido alla tradizione, alla freschezza. Senta Francesco, ma lei chiama, sì, da Foggia e non mi segnala un ristorante pugliese? Guardi, purtroppo tocco una nota dolente, su Foggia abbiamo una situazione molto molto particolare ed è un peccato, ovviamente spostandosi sulla costa tra Manfredonia, ecco, ne troviamo tantissimi. Bene, purtroppo infatti Foggia, poi avremo lo chef di un ristorante appunto di peschici per rappresentare la Puglia. È ancora la segnalazione Locanda Lorena, isola della Palmaria di fronte a Porto Venere, quindi tantissime segnalazioni. Zanini, anche a te chiedo il discorso del prezzo. Il prezzo è, il pesce costa indubbiamente e sì, continua a crescere. Il pesce costa, continua a crescere, devo dire rispetto allo scorso anno c'è stato un piccolo incremento, direi del 3-4%, quindi insomma sostenibile. Evidentemente il pesce di qualità, soprattutto il pesce delle nostre zone, costa più del pescato indocinese oppure nordafricano. Certo. Ecco, per tutta una serie di motivi che ben possiamo comprendere. La qualità è sicuramente straordinaria. A tutti e due voglio chiedere questo: il consumatore. Il consumatore conosce il pesce? Quindi conosce, non fa storie, dice questo pesce è congelato magari quando è fresco, oppure quando è congelato, quando è fresco dice che è congelato. Ecco, queste questioni ci sono continuamente, Zanini? Beh, questo è un argomento a cui naturalmente i clienti sono particolarmente sensibili. Se mi chiedi se sono particolarmente preparati, ti devo purtroppo ammettere che non sempre sono preparatissimi. Si fidano molto naturalmente del ristoratore, questo è un grande vantaggio, ma io inviterei tutti a un maggiore approfondimento, a migliore informazione. Raschi, lei cosa ne pensa su questo? Sono d'accordo col collega, perché comunque il cliente, anche se negli ultimi periodi comunque c'è molta più attenzione a quello che è il prodotto e quant'altro, grazie anche ai media, a tutti voi che continuate comunque a parlare di cucina e di tutto quanto. E il cliente, almeno in particolar modo da noi, questo non succede, anche perché poi noi, per le varie problematiche degli indagini e quant'altro, c'è scritto proprio sul menù che il nostro pesce è lavorato, battuto e viene servito dopo le 24 ore sotto controllo di pesce crudo. Ecco, io non ho sollevato il problema dell'abbattitore, ma beh, ci tornerò fra poco. Prego, prego, Braschi, chiuda pure. L'attenzione c'è, il cliente si informa e soprattutto è curioso. Il dato di cui abbiamo parlato prima, il crudo di riva, è anche voluto volutamente presentato in questa maniera, dove il pesce viene riportato nel piatto con la testa e con la coda, per dare comunque anche l'idea di che cosa il cliente finale sta mangiando, per portare a conoscenza del prodotto. Bene. Capire come è fatto un pesce realmente, anche se poi viene sfilettato e pulito. Eccoci di nuovo a continuare a girare l'Italia. Sentiamo Michele da Tortona. Buongiorno Michele. Buongiorno, buongiorno Paolini. Volevo segnalare di ritorno fresco fresco dalle ferie due ristoranti che ho provato appunto in quest'anno, che sono uno a Capraia, che è relativamente sul mare, perché purtroppo Capraia, cioè meglio così, a Capraia spiagge non ce ne sono solo rocce e scogliere, però è un ristorante, vale veramente la pena, è un ittoturismo, si chiama Il Carabottino, e hanno loro sempre pesce fresco ogni giorno, sono aperti solo la sera, cambiano il menù in base al pescato e hanno anche dei piatti veramente innovativi e diversi dal solito. E invece l'altra è l'Isola d'Elba, in una caletta piccolina nel comune di Rio Marina, la caletta si chiama Fornacelle, il ristorante si chiama Ristorante Fornacelle, sono aperti anche a mezzogiorno e anche loro hanno sempre pesce fresco, pasta solo fatta in casa e soprattutto verdure Bene. Dell'orto, per cui è una combinazione. Grazie, grazie a Michele, grazie a Michele di questa panoramica. Bene, ho ricevuto prima un sms di un signore che diceva: buongiorno Paolini, chissà se oggi parlerà nella sua trasmissione o accennerà marginalmente alla meravigliosa terra di Calabria. Caro radioascoltatore, io parlo spesso della regione Calabria, le dirò di più, che fra qualche settimana ci sarà veramente un itinerario in un'area della Calabria non conosciutissima, quindi qui si parla molto del sud. E allora abbiamo con noi Gianni Guinicelli, che è il ristorante Cala Sangrioli di Scilla, che prima aveva un altro nome, vero Gianni? Sì, prima si chiamava Lido il Gabbiano ed era gestito da me e mia moglie. Ecco. Poi abbiamo fatto donna a nostra figlia, che ci ha seguito per tanti anni, e noi altri ci vogliamo mettere a riposo. Ho capito. Senta Gianni, voi avete, cioè siete proprio il Lido, ed era, se ben ricordo, un vecchio bagno, no? Cioè era un bagno prima, sì, precedente. Siamo sul mare noi altri, in una cava stupenda, in un posto meraviglioso. Ecco. Claro. Senta Gianni, sto chiedendo a tutti qual è la realtà del pesce di quest'anno. Ecco, il mare è molto pescoso? No. Quest'anno la realtà è lo spada, che se ne stanno pigliando a Iosa, un po' di tonno, quello che si può diciamo pescare, avere, sì. Ma il pescato da mettere alla griglia, come piace a noi, ce n'è poco. Ho capito. Quindi quest'anno, quindi grandi scorpacciate di pesce spada, ma ci sarà anche qualche cos'altro, immagino. Sì, certo, troviamo le alici, di tanto in tanto i saraghi, non c'è quell'abbondanza che abbiamo avuto l'anno scorso, non lo so perché, Bene, ci sono i mupi, che si chiamano pezzoni, insomma, in napoletano, certo. Vero? Bene, Bene, diciamo che è un'area un po' diversa dalla realtà che abbiamo sentito da altre parti, ma sentiamo Angelo da Roma, buongiorno radioascoltatore. Sì, salve, buongiorno, sì, salve, chiamo da Roma e volevo segnalarvi il ristorante Saporetti a Sabaudia, sotto il promontorio del Circeo, diciamo è un ristorante storico per chi vive il litorale del Circeo e laziale, perché è un ristorante dove ci sono varie specialità di pesce e soprattutto il signor Giulio con i figli hanno una loro barca dove vanno a pescare, quindi ogni giorno portano al loro ristorante stabilimento i pesci che hanno pescato il giorno, quindi con una varietà che va dal dentice all'orata certo. A parte poi il promontorio del Circeo, che è una cosa Certo. Grazie Angelo da Roma. Ora continuiamo il giro e andiamo in Puglia, quindi abbiamo toccato magari quasi tutti i centri balneari, le aree balneari più battute. Andiamo al ristorante da Mimì al Trabucco a Peschici. Buongiorno Domenico Ottaviano. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori. Com'è il mare quest'anno? È ricco? Offre tanto oppure come in Calabria offre poco? Il mare quest'anno è un pochettino, come dire, poco stabile, molto maestrale, molto sostenuto, quindi la piccola pesca non riesce molto, diciamo, a fare appunto la pesca giornaliera, quindi insomma è un po' a giorni alterni, diciamo così, però quando riesce a uscire un sacco di frittura paranzella classica dell'Adriatica e le canocchie sono anche abbastanza belle quest'anno, belle grosse. Domenico, come le prepari le canocchie? Allora, le canocchie abbiamo sia un antipasto, un abbinamento abbastanza, come dire, strano, che con i porcini, quindi in terrina vengono appunto spaccate a metà e riempite con dei porcini appunto spadellati in padella, un po' di origano e uno spicchio di aglio, oppure appunto anche una classica orecchietta pugliese con punte di asparagi e appunto canocchie, con pomodorino fresco è la morte sua fondamentalmente. Bene, quindi vediamo che al sud, in alcune aree del sud, il mare quest'anno è molto avaro. È arrivato un sms davvero divertente, siccome si è parlato di prezzi, costa troppo e ne danno sempre meno. L'orata ora si chiama oratina. È una verità purtroppo, diciamo le risorse che sono quelle che sono, e se la domanda cresce l'offerta purtroppo si deve per forza ridurre. E quindi di conseguenza, diciamo, si riesce a offrire quel che c'è, quindi quello che si riesce a pescare, di conseguenza la dimensione del pesce pescato si riduce, perché appunto se serve viene pescato anche, diciamo, di più piccole dimensioni. Però l'importante è che sia pesce fresco, che sia pesce di mare, non sia pesce di allevamento. Purtroppo la difficoltà del consumatore che arriva in vacanza e arriva al ristorante è proprio quella di conoscere quello che sta mangiando, quindi certo. Se il consumatore riesce a informarsi un pochettino meglio su quello che può mangiare, su quello che è più sostenibile, su quello che è locale, rispetto appunto a un pesce di allevamento, certo. Magari appunto anche il ristoratore riesce a vendere un pesce a un basso prezzo e con una maggiore. Questo intervento di Domenico mi permette di dire due cose. Avevo accennato all'abbattitore. Allora, la prima cosa, cari radioascoltatori, cari gastronati, che dovete fare quando entrate in un ristorante di pesce, chiedete se hanno l'abbattitore o se non hanno l'abbattitore, tenetelo presente specialmente quando mangiate pesce azzurro. Il punto secondo è di distinguere tra pesce d'allevamento e pesce pescato a mare, anche questo un ristoratore onesto vi dirà. E terzo, guardate l'asterisco, perché molte volte sono molto piccoli, minuscoli in fondo, perché parlano di pesce surgelato. Non è detto che il pesce surgelato sia da buttare, attenzione, molte volte è meglio mangiare un pesce surgelato rispetto a un pesce che non si sa esattamente da quanto tempo è in frigo, da quanto tempo gira, quindi sicuramente è importante questo. Io credo che debbano essere tenute ben ferme queste due regole. Sentiamo Paolo da Terracino, radioascoltatore. Buongiorno Paolo. Ciao Davide, buongiorno e grazie per l'opportunità che mi dai. Veloce solo, perché chiudo. Volevo solo segnalare che al Lido di Latina, presso il Fogliano Hotel, c'è cioè un ristorante bellissimo che si chiama il Vista Mare Ristorante, ed è anche questo un ristorante che sta sul mare. Ovviamente lavora un pescato che è il pescato di Terracina, che io conosco bene perché sono di Terracina, e quindi volevo segnalarlo come un posto dove veramente si può andare a mangiare dell'ottimo pesce con dei prezzi accettabili. Bene, grazie. Gianni, grazie a te Davide. Gianni Guinicelli, come lo cucina il pesce spada, visto che ne ha tanto quest'anno? Molto alla griglia. Quindi griglia. Quindi facciamo... Molto alla griglia, poi alla pirata con... oleana, si può dire, con olivette, capperi, pomodorino, un prezzemolo, una sfumatina di vino bianco, viene delizioso. Bene. E poi facciamo involtini pure di pesce spada, e la ghiotta che è un classico della testa, certo. Del collo, quella che si chiama da noi scozzetta del pesce spada, che è la parte più grassa e più saporita. Beh. E facciamo anche un cartoccio di pesce spada. Insomma, c'è un bel menù col pesce spada. È molto, molto gradevole il carpaccio. Bene, il pesce spada. L'abbattitore ce l'abbiamo. Bene, bene. Sappiamo che è essenziale. Lei dice cose bellissime. Bene. Da belle lezioni. Bene, grazie. Grazie Gianni Guinicelli, quindi il pesce spada da modo di sbizzarrirsi. Io devo ringraziare Ottaviano e Guinicelli perché con molta onestà hanno detto quest'anno c'è poco pesce, quindi sicuramente è un modo appunto onesto di mettersi di fronte al consumatore. Io dovrei leggere ancora non so quanti SMS perché ne sono veramente arrivati tanti, ma vorrei chiudere in maniera Alessandro da Roma, veloce Alessandro. Sì, buonasera, buongiorno anzi. No, mi chiedevo una cosa, noi mangiamo carne allevata ormai da almeno 100 anni, non so, perché non possiamo mangiare pesce allevato visto che si svuotano i nostri mari? Sono d'accordo con lei, c'è del pesce d'allevamento ottimo, però bisogna distinguere, bisogna che il consumatore sappia se è d'allevamento o se è fresco. Bene, abbiamo finito questo giro dell'Italia, ringrazio tutti, appuntamento al prossimo weekend, un caro saluto da Davide Paolini, grazie Anita Panizza, Margherita Aina e Carmelo Lauricella.